Europa 24. L'emergenza migranti in primo piano, l'UE preme l'acceleratore su hotspot, ricollocamenti e rimpatri, emerge dalla bozza di conclusioni del Consiglio Interni di oggi pomeriggio. Nel documento si punta ad intensificare l'apertura degli hotspot in Italia e Grecia per arrivare al loro funzionamento entro fine novembre. Un colpo di acceleratore si prevede anche per il processo dei ricollocamenti, con la comunicazione delle disponibilità a ricollocare da parte dei diversi paesi e con la nomina di liaison officers, preferibilmente entro il 16 novembre. In parallelo, Italia e Grecia velocizzeranno i passi preparatori per effettuare i ricollocamenti. Gli Stati membri, col pieno sostegno della Commissione e di Frontex, si legge ancora nel documento, aumenteranno il numero dei rimpatri. Inoltre, l'UE lancerà una campagna informativa nei paesi di origine e di transito dei migranti per ridurre il fattore di attrazione. Si sottolineerà che i migranti devono registrarsi nel primo paese di arrivo, che secondo la legge europea i richiedenti asilo non hanno diritto di scegliere lo Stato, che tutti quelli che non hanno necessità di protezione saranno rimpatriati velocemente, che non si può rifiutare di cooperare con le autorità nazionali. È una settimana ricca di vertici europei, quella che inizia oggi. Sul tavolo dei governi le due crisi del momento. Nelle prossime ore qui a Bruxelles si riuniranno i ministri delle finanze per discutere di Grecia. Il paese si sta dimostrando lento nell'adottare le misure che gli permetteranno di ricevere nuovi aiuti finanziari per 2 miliardi di euro. I creditori dovrebbero incitare il governo Tsipras ad accelerare l'iter parlamentare di approvazione. Riunioni governative sono previste anche sul fronte dell'immigrazione. Oggi ci sarà un incontro dei ministri degli interni per discutere degli ultimi avvenimenti. Tra mercoledì e giovedì si vedranno a Malta i capi di Stato e di Governo dei 28, insieme ad alcuni rappresentanti dei paesi africani. L'obiettivo è di mettere a punto una strategia che freni l'arrivo dei migranti in Europa e faciliti, nel caso, il rimpatrio. C'è la consapevolezza che solo un maggiore sviluppo economico nei paesi del terzo mondo potrà arginare i flussi migratori nel mondo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Prime elezioni in Croazia dal loro ingresso nell'Unione Europea. Sentiamo com'è andata. È stata una sfida aperta fino all'ultimo in Croazia. Anche gli exit poll raccontavano di un testa a testa tra i socialdemocratici del premier uscente Milanovic e l'Unione Democratica Croata con i suoi partner minori, guidata da Karamarko. Un risultato che comunque non avrebbe garantito la maggioranza assoluta a nessuno. E in effetti il risultato finale costringe chi ha vinto a un'alleanza. Il prossimo governo croato sarà guidato dai conservatori, che ottengono una vittoria di misura nelle prime elezioni dopo l'ingresso nell'Unione Europea nel 2013. Abbiamo vinto, questa vittoria ci porta alla responsabilità di governare il paese che si trova in una situazione difficile, così Tomislav Karamarko ai suoi sostenitori, ex capo dei servizi segreti, è più che probabile che sarà lui a vestire i panni del nuovo premier. Ma i negoziati per arrivare a una maggioranza a sostegno del governo non saranno facili. Il terzo partito, Most, alleanza di candidati indipendenti, ha ottenuto un buon risultato, ma ha già fatto sapere che non appoggerà nessuna coalizione. La Croazia vive sulla propria pelle la crisi migratoria. Karamarko ha ipotizzato l'uso dell'esercito per limitare gli arrivi. Anche il quadro economico del paese è delicato. Saranno necessarie riforme e ulteriori sacrifici per uscire dalla recessione cominciata 6 anni fa. La disoccupazione è al 15,4%, quella giovanile supera il 43%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.